Sanpei, Sanpei, pescatore, grandi orecchie sfantola, sorriso di sole, Sanpei. Che sarà? Pesce, cane, spada, che sarà? È questione di momenti, abboccherà. Amica tua, una canna fatta di magia, e quell'amo una calamita, impossibile cambiare strada. Gira il mondo con i marinai, quanti mari vedrai. Stato Evans, il 9 e il 10. Però è un enorme mattone al tentativo. Domina con le deviazioni. Thank you. Mentre infuriava la tempesta sui mercati finanziari, sono usciti i dati dell'ultima indagine sulle forze del lavoro. Sono passati. Sembrava che ci stessimo avviando verso un mondo dominato da paesi ieri poveri. L'Unione Europea non ha abbassato i tassi di interesse, però ha lasciato capire che presto lo farà. Sta anche mettendo. Tu pensa all'economia. Oggi si dà i premi Nobel a questi economisti bravi, eccellenti, che con i loro modelli matematici riescono a prevedere la borsa di Hong Kong fra 20 anni. Ma chi se ne frega? L'economia dovrebbe essere fondata sulle esigenze dell'uomo. L'economia dovrebbe essere fatta non per i criteri economici, ma per l'uomo, la crescita. Ma siamo sicuri che il progresso deve essere solo crescita? O non sarebbe molto meglio arrivare ad una situazione in cui abbiamo poco ma il giusto? Poco ma il giusto. Voglio dire, se ci rimettiamo a pensare ciò di cui veramente abbiamo bisogno, non è quello che l'economia di oggi ci dà. Se tu pensi, oggi l'economia è fatta per costringere tanta gente a lavorare a ritmi spaventosi per produrre delle cose per lo più inutili, che altri lavorano a ritmi spaventosi per poter comprare, perché questo è ciò che dà soldi alle società multinazionali, alle grandi aziende, ma non dà felicità alla gente. Io trovo che c'è una bella parola in italiano che è molto più calzante della parola felice, ed è contento. Accontentarsi. Uno che si accontenta è un uomo felice, perché questo sistema fondato sulla crescita dei desideri, no? C'è sempre un desiderio che per te è raggiungibile, rende tutti infelici. Noi siamo in mano a delle cose che non pensiamo neanche che esistano, Fondo Monetario, Banca Mondiale, gente che deciderà 10.000 chilometri che cazzo dovrà di acqua dovremo bere noi nel prossimo decennio. Non sapremo mai chi sono, perché noi pensiamo che siano questi, ma i poteri si stanno svegliando. Siamo al grande passaggio, ci siamo. Alla fine del secondo millennio, entrando nel terzo, si svegliano. Come nel 1999 tutti erano pronti a morire perché finiva il mondo, si stanno risvegliando per la seconda volta. Chissà se ci andrà meglio. Chissà. Si stanno risvegliando i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Si sta svegliando il grande drago. Il drago. Il drago. I quattro cavalieri dell'Apocalisse. Voi non li riconoscete neanche. Sai chi sono? Dimmi la verità. No. Non li abbiamo neanche mai visti. Eppure guardateli bene. Sono quattro banchieri. Una volta c'erano i gangster, oggi ci sono i bankster. Il primo sulla destra, guardiamo le facce, torniamo agli istinti. Guardate la faccia, Greenspan, presidente della Federal Reserve americana. Greenspan, guardatelo. È un uomo quello lì, o un cane da slitta. È un cane quello lì. Solo che la differenza tra un cane e un banchiere è che se al cane tiri qualcosa te la riporta indietro. Il banchiere col cazzo che ti riporta indietro qualcosa. Vai avanti. Secondo, la grande banca del nostro paradiso, Dietmeyer, della Bundesbank. Bunde! Questo qua è Tietmeyer ha già nominato e ha già a stipendio con i nostri soldi Duisberger, direttore della Banca Centrale Europea Francoforte, quella che deciderà se casa tua potrà valere qualcosa, se tuo figlio potrà fare l'università o se tu ti potrai far crescere i capelli. Lo dirà uno nominato da questo Wüster andato a male, Tietmeyer, terzo banchiere, Matsushita. L'hanno quasi arrestato e coinvolto in qualche casino, presidente della banca giapponese, prima banca del mondo. Guardate che faccia. E guardate in fondo, vai. Lì, dal culo del drago, esce questa emorroide. Questa emorroide disumana che è il nostro governatore della Banca d'Italia. Faccia. Grande faccia. Beh, questi quattro li lega una cosa straordinaria. Sono quattro banchieri di quattro banche che stampano moneta alla presta. Stampano soldi e prestano. Stampano e prestano. Noi non riusciamo più a percepire cos'è la verità. Non sappiamo se la medicina ci fa bene o male, se una notizia è vera o falsa. Non sappiamo cos'è un debito, non sappiamo più cos'è un credito. È vero? Ci parlano che abbiamo 2,5 milioni di miliardi di debito. Se c'è un debitore ci sarà anche un creditore. A chi cazzo li dobbiamo sti soldi? Scusi, a chi dobbiamo 2,5 milioni di miliardi che mi rompono i coglioni da 10 anni? Con sti 2,5 milioni di miliardi? A noi, allora me li devo da solo, non voglio più un cazzo, siamo pari, vaffanculo. Cos'è? Va bene? È un sistema del debito. Questo è un sistema tremendo. Non riusciamo più a percepire. Se io adesso qui chiedessi a qualcuno che cos'è l'oro, hanno fatto rientrare tutti i canoni nei parametri rivalutando l'oro. Feigl, tedesco, ha rivalutato l'oro, noi abbiamo rivalutato l'oro di 3,000 miliardi sulla carta. Che cos'è l'oro? È una ricchezza l'oro. Siamo tutti contenti. Vero, onestamente, dai. L'oro si prende facendo un buco in Sudafrica, in Turchia, oppure in Amazzonia. Quelli lì sono i cercatori d'oro. L'oro è una ricchezza. Questi sono, ecco, fermati lì. Sono 40,000 persone che fanno un buco per cercare l'oro. Un chilo d'oro, 300,000 chili di rifiuti. 1 per 100,000. Rifiuti di cianuro e mercurio. La cosa col più alto impatto ambientale che esista in natura è l'oro. Va bene, però ricchezza. Scaviamo l'oro. Prendiamo l'oro in un buco e poi lo prendiamo questo da un buco, lo portiamo e lo mettiamo in un buco sotto una banca. Cioè, prendiamo l'oro da un buco a un altro buco. Cazzo, facciamo direttamente la banca sul primo buco e vaffanculo. Che senso ha? L'oro non è una ricchezza se lo prendi da un buco e lo nascondi sotto una banca, è solo un costo pazzesco. Sarebbe una ricchezza l'oro se lo dai ai dentisti che ci fanno delle cazzo di capsule, o agli orafi che lo lavorano, o agli elettricisti, ma se lo metti di un cavò. Nelle banche non c'è più niente, non ci sono neanche i vostri risparmi. Oggi i soldi nascono dal nulla creati dalle banche. Bip! Con un computer, 1,000 miliardi in Messico, bancarotta. Bip! 1,000 miliardi in Thailandia, bancarotta. Corea, bancarotta. Indonesia, si mangiano le rupie. Jugoslavia, c'è un'inflazione come nel 30 in Germania, che andavano a comprare le sigarette con la cariola. Arrivano con la cariola. Può succedere domani mattina qui. Qui può succedere domani mattina. In banca non c'è più niente. Una volta si stampavano i soldi quando c'era l'oro nelle casseforti. Si stampavano i soldi quando c'erano i nostri risparmi a proteggere i cazzo di check o di carte di credito. Non c'è più niente. Stampano soldi e ce li prestano. Ora mi dite una cosa, di chi sono i soldi? È una domanda. La proprietà dei soldi di chi è? Dello Stato. Quindi lo Stato siamo noi. Lo Stato, sapete che non esiste lo Stato. Lo Stato è un'invenzione giuridica, non c'è lo Stato. Ci siamo noi. Quindi i soldi sono i nostri. Benissimo. Allora, siete d'accordo? Sì. Allora, voglio sapere una cosa. Se i soldi sono i nostri, C'è qualche cosa che non quadra, no? C'è qualche cosa che non quadra. Una volta avevi delle monete d'oro, erano le tue, c'era l'oro, un po' d'oro c'era, benissimo, però ce l'avevi in mano tu, era tu. Tu adesso hai un pezzo di carta che ci scrivono 100.000 lire. Allora, vediamo di chi sono i soldi. Mi sono permesso di controllare l'ovvio, perché l'ovvio non lo controlla mai nessuno. E chi può controllare e leggere i soldi? Sono uno di Genova con dei grossi problemi. Allora, sulle 200 lire, sulle 100 lire c'è scritto Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana siamo noi, va bene? D'accordo. Sulle 100.000, Repubblica Italiana non c'è più, c'è Banca d'Italia, un governatore, e poi c'è scritto pagabili a vista al portatore. E se c'è scritto quella cosa lì, qualche cosa vorrà dire. Pagabili a vista al portatore. Prendo le 100.000, pagabili a vista, vado dalla banca, mi vede a vista, cazzo. Sono il portatore. Me le può pagare, per favore? Ce l'avete scritto voi, che cazzo? Col cazzo che ti pagano, non ti pagano niente. Allora perché ci scrivono questa cosa qui? Però uno dice, ma Grillo, cosa dici? La Banca d'Italia è la banca dello Stato italiano. Non è vero. La Banca d'Italia è un S.P.A. privata. La proprietà della Banca d'Italia sono 10 assicurazioni, 10 fondazioni e 10 banche, che sono tutte società per azioni. I proprietari sono sempre gli stessi, non si saprà mai chi sono, ma sono sempre gli stessi, con la sede e i coglioni alle isole Cayman. Stampano soldi dal nulla e ce li prestano. Lo Stato dovrebbe stampare i soldi ci servono per lavorare. Lo Stato dovrebbe dire, ce ne sono pochi? Ne stampo un po' e li metto un po' in circolazione. Ce ne sono troppo pochi, ne stampo. Ce ne sono molti, ne prendo un po' e ne brucio un po'. Mantengo la circolazione stabile, i prezzi stabili. I soldi servono per tenere i prezzi stabili e per farci lavorare, sono pezzi di carta. Però li stampa un S.P.A. perché i soldi non dovrebbero essere così. Banca d'Italia, governatore pagabile a vista. I soldi in un paese civile dovrebbero essere così. Repubblica Italiana e non Banca d'Italia. Di proprietà del portatore e invece di un cazzo di governatore, il capo dello Stato. Firma lui. Farebbe una cosa nella vita che ci potrebbe dare un minimo di soddisfazione. Sapere come gira la più grande fregatura che ci castra da decenni e ci fa la vita dura. Prova a chiedere a qualcuno se per caso si è informato sull'origine del debito che pubblico han chiamato e per fargli ben capire che non ha capito un cazzo, digli che ti provi a dire a chi deve questo puzzo. Ma lo Stato deve a me, anzi io devo allo Stato. Che dico, se ci penso, sono autoindebitato. Il denaro generato da una banda irriverente che lo genera dal nulla, senza garantir con niente. Mi scambio cambiato con i bot, con i vuoti CCT. E anche loro son creati non da loro lì per lì. E nel giro complicato che non cogli con la mente, prende il banco tutti i soldi mentre tu non hai più niente. Ma lo Stato deve a me, anzi io devo allo Stato. Ma che debito pazzesco, ce l'hai già appena nato. Banca Italia e la moneta che sembravano dello Stato, or son parte del bottino di chi ci ha privatizzato. Vuoi sapere il risultato? La morale cola qua. Mentre noi ci fanno fessi, il denaro se ne va. Tasse, multe ed interessi vanno solo ad ingrassare i politici e banchieri specialisti a prelevare. Ma lo Stato deve a me, anzi io devo allo Stato. Questo debito fittizio l'hanno ben congegnato. Stato, aziende, imprenditori sono distrutti e stanno morendo. Banche ed assicurazioni stanno crescendo e prosperando. Smascheriamo gli imbroglioni, sono tutti di una risma. Rossi, neri, radicali, hanno tutti mani in pasta. Ma sei cieco, non lo vedi? È un disastro pilotato dal cartello delle banche che l'Italia ha ormai rubato. Ma lo Stato deve a me, anzi io devo allo Stato. Banca Italia se la colli, perché è lei che l'ha creato. Ma che debito pubblico? Ma che debito pubblico? Siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare. Di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Sono in mezzo al mare, come profondo il mare. Solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come